ricordo col bikini sulla spiaggia, ma l'inverno ti nasconde nel cappotto. Ma se chiudo gli occhi ritorno in riva al mare, ti posso rivedere ed amare di più. Con il mare ti facevi gli occhi belli, con il vento pettinavi i tuoi capelli. Ora sei cambiata, vestita come tutte, truccata come tutte, pettinata alla spac. Ti ricordo col bikini sulla spiaggia, ma l'inverno ti nasconde nel cappotto. Sento tanto freddo, ti stringo fra le braccia, ritorno sulla sabbia, abbracciato con te. Abbracciato con te, abbracciato con te. Ah, ah, ah. Abbracciato.